di Dario Ricci. Sembra una barzelletta, sembra il destino. Io non posso smettere di nuotare. E niente, speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno. Io credo che sia una cosa ragionevole, anche perché ancora ci sarà tanto tempo da combattere questa malattia, per cui credo che una bella pausa sia necessaria per resettare tutto e ripartire poi fra qualche mese con più vigoria e determinazione verso l'obiettivo dell'anno prossimo. Le voci della divina delle nostre piscine, Federica Pellegrini, e del tecnico del Sette Bello della pallanuoto, campione del mondo, Sandro Campagna, salutano così le decisioni del CIO e del governo giapponese. I giochi di Tokyo vengono rinviati di un anno, causa coronavirus. Decisione sofferta, ma inevitabile, visti i tempi cupi che stiamo attraversando. A Tokyo si andrà, ma nel 2021, quindi sperando che la pandemia sia allora solo un tragico ricordo e che il mondo sia pronto ai giochi della rinascita. Staremo a vedere cosa accadrà, ma intanto qui a Olimpia vogliamo fare un viaggio nel tempo e tornare a quel 1940, anno in cui il Giappone avrebbe già dovuto ospitare le Olimpiadi per la prima volta nella sua storia, e sarebbe stata anche la prima volta in Asia. Ma anche in quell'occasione il sogno a cinque cerchi svanì e molti campioni, come vedremo, si ritrovarono dal lottare per un podio olimpico al battagliare in trincea. Ne iniziamo a parlare col nostro primo ospite, saggista, giornalista, storico dello sport, membro della Società Italiana di Storia dello Sport, Nicola Sbetti, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori. Professor Sbetti, ecco, come si arriva all'assegnazione a Tokyo delle Olimpiadi del 1940? Diciamo che i giapponesi, che erano diventati una potenza sportiva all'inizio degli anni 30, la prima, diciamo, potenza sportiva non occidentale, avevano usato tutte le armi diplomatiche a loro disposizione già nel 36 per ottenere quei giochi nel 40, avevano convinto i britannici e gli italiani a non portare avanti le loro candidature, che erano molto forti, quella di Londra e quella di Roma per i giochi del 40, avevano ottenuto questa assegnazione, che era sicuramente una assegnazione storica, perché per la prima volta i giochi sarebbero andati in Asia. In realtà già nel luglio del 38, quindi non ancora all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quei giochi vengono tolti ai giapponesi. E questo perché? Perché il Giappone, con la sua politica imperialista, era impegnato in una guerra con la Cina, la guerra sino-giapponese, e il protrarsi di questo scontro porterà il CIO a decidere di spostare quei giochi, e la località scelta per i giochi del 40 fu, a quel punto, fu Helsinki, mentre i giochi invernali addirittura vennero spostati a Garmisch, che già li aveva ospitati nel 36 alla vigilia, appunto, dei giochi estivi, quelli di Berlino. Quindi il CIO reagì in modo sorprendentemente rapido, come sempre, con come dire, la preoccupazione. C'era stato comunque già l'episodio della Prima Guerra Mondiale con l'edizione di Berlino 1916 cancellata, quindi, come dire, c'era una sorta di attenzione, visto che due anni prima dell'organizzazione dei giochi il Giappone era impegnato in una guerra, si decise di spostarlo. E effettivamente questa decisione fu relativamente repentina, anche molto rispetto ai tempi tecnici, la cosa dell'epoca. La cosa interessante è che appunto, se nella Prima Guerra Mondiale lo sport si fermò in maniera abbastanza repentina con lo scoppio del conflitto, almeno a livello internazionale, nella Seconda Guerra Mondiale invece lo sport andò avanti, anche perché da parte nazista, in particolare, insomma, da parte tedesca, ci fu questo progetto, supportato anche dall'Italia fascista e dal Giappone imperialista, appunto, di costruire un nuovo ordine sportivo mondiale in cui i vertici sportivi internazionali classici, come appunto il Comitato Olimpico Internazionale, vennero man mano messi, diciamo, un po' in secondo piano. Nel 38 in quel momento c'era ancora, diciamo, un dominio franco-inglese all'interno del CIO. Poi a partire dal 39-40, chiaramente con le vittorie della Wehrmacht, cambiano un po' gli equilibri e vediamo che appunto c'è questo tentativo di organizzare delle competizioni internazionali in un momento in cui la guerra è in corso. Famosi sono per esempio i mondiali di sci a Cortina che si svolsero regolarmente durante la guerra, salvo poi essere cancellati una volta la guerra finita, visto che avevano partecipato solo i paesi dell'asse assieme a qualche paese neutrale come la Svizzera e la Svezia. Ecco, un Giappone che aveva investito molto economicamente ed emotivamente su quelle Olimpiadi. Possiamo, fatte le dovute considerazioni del fatto che i tempi storici erano ben diversi, ma diciamo l'enfasi che c'era già negli anni 30 per il Giappone di organizzare quelle Olimpiadi del 40 è paragonabile a quella che c'era in Cina alla vigilia dei primi giochi di Pechino o che c'è magari adesso, non so, per dire in Qatar prima di organizzare questi mondiali che vedremo se si svolgeranno o meno, ma comunque era tutto pronto. Il Giappone, come detto, era in quel momento una potenza sportiva in grande crescita e per ottenere quei giochi veramente il Giappone fece di tutto, al punto di andare a parlare direttamente con Mussolini, e Mussolini bloccò la candidatura italiana alle Olimpiadi del 40, la candidatura di Roma, perché appunto, nonostante i membri italiani del CIO avessero fatto un ottimo lavoro per far vincere Roma quell'edizione, per Mussolini la potenziale alleanza con il Giappone in un momento in cui stava pianificando anche l'invasione dell'Etiopia era fondamentale. Professor Sbetti, le chiedo ancora, qual era il valore dello sport per questi stati totalitari? Aveva un valore molto importante, però attenzione, un po' come quest'ultimo aneddoto che vi ho raccontato, e quindi un po' come per l'Italia, la Germania e il Giappone, veramente investivano molto sullo sport. Lo sport doveva proiettare la potenza del paese nel mondo. Allo stesso tempo però non era così importante organizzare un'Olimpiade rispetto a conquistare un paese o rispetto a fare la guerra, e quindi lo sport era fondamentale finché si era in tempo di pace. Poi, una volta che era cominciato, diciamo, si entrava in una situazione di guerra, si poteva sacrificare tranquillamente un evento sportivo in funzione appunto di obiettivi in quel momento considerati più alti da parte di questi stati totalitari o che ambivano ad esserlo. Il Giappone, un nuovo Giappone, ritroverà le Olimpiadi nel 1964. Ecco, c'è un filo rosso che lega l'edizione mancata del 1940, quella del 1964 e questa di Tokyo 2020, appena diventata 2021, anche se non cambierà il nome di fatto. Con quella del 64 senz'altro, cioè nel senso c'è un filo rosso che lega poi anche l'edizione di Roma 60, Tokyo 64 e Monaco 72, cioè la redenzione di quei paesi che appunto organizzando delle Olimpiadi come paesi democratici e non più come regimi totalitari che ambivano ad esserlo, ecco, è questa grande, grande redenzione attraverso le Olimpiadi, quello senza dubbio. Rispetto a questa edizione, la cosa secondo me interessante è che quando si assegnarono quei giochi il dubbio era: ma potrà il Giappone organizzarli visto che c'è stata Fukushima? Ecco, questo ci fa capire, oggi ci siamo quasi completamente dimenticati di quella tragedia e i problemi sono altri, cioè il coronavirus. Ecco, questo ci fa capire come è vero, 7 anni per programmare un'Olimpiade sono importanti, sono necessari, sono fondamentali, ma pensare 7 anni di anticipo a quello che sarà lo scenario geopolitico, sociale e appunto e anche di salute pubblica del mondo in quel appunto 7 anni dopo è impossibile, è una scommessa organizzare i giochi, e in certi casi il timing è favorevole, in certi casi il timing è estremamente sfortunato. Nicola Sbetti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te. Un istante di pausa, ora poi vi aspetto ancora qui a Olimpia per scoprire insieme alcuni dei campioni mancati di quei giochi di Tokyo 1940. Olimpia. l'anno prossimo sarà ancora più complicato, però non crede che non stia già pensando a come farlo. Si rimette tutto in discussione, ma chi se ne frega. Quindi io ho intenzione di farmi trovare pronto, cioè in testa al triathlon, ho in testa chissà, magari anche la finale mondiale dell'Ironman a Kona, che ho già affrontato due volte e mi piacerebbe rifarla. Insomma, cose da fare, credimi, ce ne sono mille. Una insomma si potrà pur fare. Tutta l'energia del grande Alex Zanardi spinge lo sport italiano e mondiale verso le Olimpiadi di Tokyo, rinviate ora al 2021 e anche oltre. Olimpiadi rinviate appunto di un anno, causa la pandemia in atto, e speriamo davvero di poter fra 12 mesi celebrare in Giappone una grande rinascita del mondo e dello sport. Intanto oggi qui a Olimpia abbiamo fatto un salto all'indietro nel tempo e siamo tornati proprio a Tokyo, ma nel 1940. Avrebbe dovuto ospitarli già quell'anno i Cinque Cerchi, la capitale nipponica, ma l'assegnazione le venne ritirata per lo scoppio della guerra cino-giapponese del 1937-38. Poi arrivò il secondo conflitto mondiale e fece il resto. Molti campioni dello sport nipponico che si ritrovarono quindi catapultati dal podio olimpico alle trincee. Ne vogliamo ricordare alcuni oggi grazie all'aiuto di due amici studiosi, anche loro componenti della Società Italiana di Storia dello Sport. Marco Impiglia, ben ritrovato. Sì, buonasera a te Dario. E Gerardo Bonini, grazie per essere ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, Marco Impiglia, se non sbaglio c'è un calciatore nipponico che è entrato nella leggenda dello sport giapponese proprio poco prima dell'ipotetica Olimpiade di Tokyo 1940. Sì, questo calciatore, Dario, si chiamava Akira Matsunaga. È morto in una battaglia tra le più importanti della Seconda Guerra Mondiale, nella guerra tra americani e giapponesi a Guadalcanal nell'agosto del 1942, un semplice fante. Allora, la storia di Akira Matsunaga è legata appunto ai Giochi Olimpici del 1936 e incrocia le sorti auree della nazionale azzurra guidata da Vittorio Pozzo, composta tutta da universitari, così come effettivamente la nazionale giapponese, che si presentò per la prima volta a un importante evento come quello, era composta pure da universitari o studenti. Matsunaga cosa combinò nello specifico? Matsunaga aveva 21 anni, giocava alla destra, numero 7, era molto veloce, sembra che avesse un 10,8 sui 100 metri. Il fatto sta che il buon Matsunaga, nella partita d'esordio della nazionale nipponica allo stadio dell'Erta Berlino con la Svezia, davanti a un nazionale sulla carta molto più forte, pur perdendo 2-0 al termine del primo tempo, nel secondo tempo fece 3 gol. E l'ultimo, a 5 minuti dalla fine, chi lo marcò? Proprio il buon Akira Matsunaga. Quella partita è rimasta nella storia del calcio nipponico col nome di The Miracle of Berlin, il miracolo di Berlino, non so come si dice in giapponese. Comunque, addirittura la maglia di Matsunaga oggi si trova al Prince Chichibu, scusate per il mio giapponese, non credo che sia quello perfetto, Memorial Sports Museum di Tokyo, un museo, biblioteca. Non si può vedere, comunque sta lì ed è la più antica maglia della nazionale giapponese di calcio esistente, per cui insomma direi proprio un pezzo di storia del calcio nipponico. Un altro leggendario campione arriva invece dall'equitazione, vero Impiglia? La storia di Takeichi Nishi è aurata proprio di leggenda, si incrocia con l'arte filmica, grazie appunto al libro e poi al film Lettere da Iwo Jima, diretto da Clint Eastwood, e poi con le Olimpiadi del 1932 a Los Angeles e del 1936 a Berlino. Takeichi Nishi era praticamente il figlio illegittimo di un barone giapponese, nel senso che insomma una concubina, l'aveva avuta questa concubina, poi l'ha riconosciuto comunque, per cui poté fare una carriera, diciamo, da militari, da attaché, come si usava insomma per l'aristocrazia anche nipponica, e salì al grado di tenente già nel 1927, tenente della cavalleria. Una storia legata a doppio filo anche con l'Italia, giusto? Ora, qui ho scoperto che il buon Nishi ha fatto un viaggetto a Roma e forse, credo, probabile che ci sia un collegamento con un maggiore, tale Yamaura Yasushi, che era, fu tra i 5 ospiti stranieri del collegio della scuola di equitazione di campagna di Tor di Quinto, famosa in tutto il mondo, e ogni anno appunto faceva questi corsi, queste lezioni di equitazione secondo il modello stabilito da Federico Caprilli, diciamo il modello sportivo dell'equitazione, e ospitava anche dei cavalieri stranieri. Ora immagino che tra Yasushi, che era un maggiore, e il tenente Nishi, in quel 1930 ci potesse essere un certo collegamento, anche perché poi Nishi partecipa in maggio al Gran Premio delle Nazioni a Piazza di Siena e si compra un cavallo che, guarda caso, è un hunter irlandese, cioè uno proprio dei saltatori della scuola di Tor di Quinto, che erano degli irlandesi di media stazza, molto abili nel salto dell'ostacolo. E questo cavallo Uranus sarà fondamentale per i successi di Nishi. Questo irlandese baio viene usato da Nishi proprio ai Giochi Olimpici del 32, perché Nishi ritorna Giappone, poi va negli Stati Uniti d'America, dopo questo tour sportivo, diciamo così, in Europa, conosce tra l'altro varie star hollywoodiane frequentando il circolo di Charlie Chaplin, ci faccio i nomi di due grandissimi come Douglas Fairbanks e Mary Pickford, e diventa un po' un gaudente, insomma, della Los Angeles di quei tempi, non trascurando comunque di allenarsi per i Giochi Olimpici. E a Los Angeles come andò? Ai Giochi Olimpici, nella gara di salta ostacoli, su un percorso di 18 ostacoli, batte tutti, come ultimo scende in campo, fa il miglior tempo, anche migliore di quello dello svedese che in quel momento era in testa, e quindi si aggiudica l'alloro olimpico, che tra l'altro ad oggi è ancora l'unica medaglia d'oro olimpica guadagnata dal Giappone nella equitazione. Quindi una storia bellissima che continua, perché Takeichi Nishi si prepara anche per i giochi del 36 che sono ospitati a Berlino. Tra l'altro continua, insomma, ad essere chiamato Baron Nishi negli Stati Uniti d'America, a Los Angeles, perché veste Hermès dei capi di Daino firmati Hermès, che tra l'altro in quel periodo lancia anche una sua collezione legata al mondo equestre. E poi però a Berlino inopinatamente fallisce, diciamo, proprio le prove in cui si espone la sua gloria, cadendo proprio in modo anche un po' strano nella gara che lo vedeva favorito, e in questo modo permette ai tedeschi di guadagnare tutte le medaglie nell'equitazione, quando lui forse era l'ostacolo più grave. Qualcuno dice campione che campione nello sport e orgoglioso fatto militare nell'esercito del sollevante Nishi, vero? Gli Stati Uniti d'America a un certo punto attaccano direttamente il Giappone e Takeichi Nishi lo ritroviamo con tutta la sua fama che si era guadagnata negli anni precedenti presso gli americani, fama sportiva ma anche nel mondo delle star cinematografiche, lo ritroviamo alla guida di un reggimento di carri armati a difesa dell'isola di Iwo Jima, lì nel Pacifico, l'ultimo avamposto, insomma, che devono assolutamente difendere i giapponesi per evitare l'avanzata fino alle loro coste degli Yankee. Questo episodio è stato eternato sia dalla storiografia classica sia appunto dall'arte attraverso libri e riproposizioni filmiche, tra i quali quella di Clint Eastwood, un film del 2006, tutto girato in giapponese con vari attori giapponesi, e Takeichi Nishi ci fa un figurone perché praticamente salva un giapponese a un certo punto, poi viene ferito in un occhio, fa seppuku, cioè praticamente harakiri con tutti i suoi colleghi, e tra l'altro rifiuta di avere comunque contatti con gli altogradi americani che volevano comunque parlare con lui sapevano che stava dall'altra parte, forse lo volevano salvare, non si sa. Comunque tutto questo episodio finale della vita avventurosissima di Takeuchi Nishi è ammantata nel mistero, seppure poi presentata da Clint Eastwood in una maniera comunque che sicuramente non poté dispiacere a lui, né è dispiaciuta in fondo neanche ai giapponesi. Quindi diciamo pure che è un personaggio all'incrocio tra arte, sport e militaria, diciamo così. Straordinaria la parabola di Nishi. Gerardo Bonini, so invece che il secondo conflitto mondiale inghiottirà anche un grande saltatore con l'asta giapponese. Si chiamava Sueo Oe e appunto era nato nel 1914 e era anche lui cresciuto all'ombra di un altro grande campione, Nishida, che aveva preso la medaglia d'argento a Los Angeles nel 1932. Il Giappone nell'atletica leggera, specialmente nei salti, aveva tirato su, diciamo, atleti di grande valore. Oe, bronzo appunto a Berlino nel 1936, alle spalle dell'americano Meadows, vincitore con 4,35, e appunto del connazionale Nishida, che con 4,30 migliorò il primato giapponese nell'occasione, si piazzò terzo con 4,25. Già nel 1937 era salito come prestazione personale a 4,35 e poi nelle due stagioni che gli rimasero prima della guerra, prima dell'irreggimentamento nelle forze militari giapponesi, era arrivato sempre sui 4,30. Morì nelle Filippine la vigilia di Natale del 1941. E c'è infine un lottatore che subì il pesante clima di sospetti che si respirava in quegli anni negli Stati Uniti verso chi anche solo aveva i tratti somatici orientaleggianti. Ishikawa era un atleta, un figlio di immigrati delle Hawaii di origine a loro volta giapponesi. E era un figlio già di terza generazione, cioè anche suo padre era nato nell'Hawaii, però ovviamente aveva conservato caratteristiche, diciamo, somatiche chiaramente identificabili come giapponese. Lui emerse presto, perché è nato nel 1920 e già nel 1943 e 44 aveva ottenuto grandissimi risultati. E nel 44 è stato campione americano, era nei pesi gallo, quindi al limite dei 56 kg. Il fattaccio, diciamo, avvenne nel luglio del 1945, appunto luglio 1945, e tutti sappiamo 6 agosto 1945 la prima bomba atomica di Hiroshima. C'era un clima, un'esasperazione anti-giapponese che portò e i giudici di gara e la federazione a consigliare, diciamo, l'atleta a esibirsi negli spogliatoi, cioè tutte le sue prestazioni furono validate per la paura che il pubblico, ma anche gli altri concorrenti, se la prendessero lui, fosse veramente ostacolato in maniera grave alla sua prestazione. Nel futuro breve dopo la guerra Ishikawa continuò a vincere e partecipò alle Olimpiadi di Londra conquistando la medaglia di bronzo. Marco Impiglia, Gerardo Bonini, grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel tempo fino a Tokyo 1940 e per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te. Grazie a voi, buonasera a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.